197. Crocchette di animelle. Prendete grammi 150 di animelle, cuocetele nel sugo oppure con un battutino di cipolla e burro e conditele con sale, pepe e l'odore della noce moscata. Poi tagliatele a piccoli dadi e mescolatele a 2 cucchiaiate di balsamella, piuttosto soda, aggiungendo un rosso d'uovo e un buon pizzico di parmigiano. Prendete su il composto a piccole cucchiaiate, versatelo nel pan grattato, dandogli la forma bislunga ad uso rocchetto. Dopo immergetele nell'uovo sbattuto, poi un'altra volta nel pan grattato e friggetele. Potrete renderle di gusto più grato se nel composto aggiungete prosciutto grasso e magro, lingua salata a piccoli dadi e se invece della noce moscata date loro l'odore dei tartufi a pezzettini. Col suddetto quantitativo di animelle otterrete 10 o 12 crocchette, le quali potete unire ad altra qualità di fritto per farne un piatto di fritto misto.